cosa sei, cosa vuoi, si vedrà, magari ti arrendi, come sempre si scoprirai che non servirà la virtù della ragione, di carne ti farà ragionevole visione, che tutti sazierà e sempre contenti, anche tu come me mentirai vivendo di stenti, come me saprai banchettare di verità la virtù della ragione, di carne ti farà ragionevole visione, che tutti sazierà. Meglio dire la bugia che si dire colpa mia, meglio dire la bugia che si dire colpa mia, l'ultima lacrima sì. Ragionevole visione che tutti sazierà, meglio dire.